Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Oggi parliamo delle avventure di Winnie the Pooh, che è il 22esimo classico Disney rilasciato nel 1977. Il film deriva da alcuni cortometraggi realizzati fra gli anni 70 e 60 dagli studios, ispirati da dei racconti dell'autore britannico Alan Alexander Milne. Il film quindi è composto da questi tre cortometraggi già usciti e un quarto inedito che verrà realizzato apposta per il film, collegati da altre animazioni per unire le storie. I protagonisti degli episodi sono Christopher Robin, un bambino in visita al Bosco dei 100 Acri, dove si trova il piccolo orsetto di pezza Winnie the Pooh e i suoi altri amici. Il film, che ha come trama trasversale la leggerezza dell'infanzia e le piccole avventure che Christopher vive insieme ai suoi amici, ha un design che si rifà molto ai libri originali di Milne, ricordando appunto le illustrazioni per bambini. Il successo dei libri, che sono ispirati al figlio di Milne, il suo piccolo orsetto di nome Winnie per l'appunto, e l'originalità e la tenerezza dei personaggi animati dagli studios, hanno reso il film uno dei più apprezzati da parte del pubblico, anche per il valore affettivo. Tant'è che anche tuttora vengono realizzati molti gadget e molti spin-off, tramandando un po' la storia appunto di tutti i personaggi del Bosco dei 100 Acri. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.